All'attacco. Nella Halakha oggi studiamo capitolo 23 del Kitzur, Kitzat Dinei Kriyat Sefer Torah. Alcune regole che riguardano la lettura del Sefer Torah. Numero 1. Aleph, Keshemotzim et Sefer Torah min Aron HaKodesh, quando si estrae il Sefer Torah dal Aron HaKodesh, dal Heichal, venosin oto el Teva, e lo si trasporta verso la Teva, Shekorin Bosham, la Teva sulla quale si legge, dal Sefer, nosim oto derech Tzafon, lo si porta andando verso nord, cioè Sheul Yemin Hanose, a destra di chi porta il Sefer. Perché diciamo nord? Perché normalmente si prega verso est, e chi si rivolge verso ovest con il Sefer deve andare a destra, cioè nord, e da quella direzione inizia a portare il Sefer verso il luogo in cui sarà letto. Ovviamente si adegua, si adatta alla posizione dove uno sì, sta. Sì, sì, sì. A destra di chi porta? C'è la bussola qua. Ah. Che la Rona Kodesh, e quando solo si riporta verso la Rona Kodesh, non si notò derech darom. Lo si riporta dalla sinistra, cioè da sud. Utrichim la chazik et sefer Torah biyad yamin. E bisogna tenere il Sefer Torah con la mano destra. Un mitzvah al kol adam. Ed è una bella cosa, un mitzvah, che ognuno davanti al quale passa il Sefer Torah, cioè Sefer Torah, ovvero le Fanav, davanti al quale passa il Sefer, cioè il Ave Oto Adela Teva, che ognuno lo accompagni fino a che questo arriva alla Teva. In pratica alcuni usano così, alcuni non seguono ma seguono con lo sguardo. Anche questo è rispetto di seguire il Sefer, anche con lo sguardo. Al tempio dove andavo io a Milano, da ragazzino, sì. C'era il fatto che si andava proprio tutti sì, dietro. Sì, sì. Esiste questa cosa, sì, sì. Poi ho visto che non sapevo che fosse dietro ci fosse questo. Poi ho visto che si faceva, non si faceva, però... Hai visto? Bello. Ripeto così le posizioni, no? Prende le direzioni, riprendono praticamente da quello che si faceva nel Beit HaMikdash il giorno di Kippur, che facevano andando intorno al Mizbeach? Sì. Sì, credo di sì, perché si andava anche lì a destra. Sì, e poi si faceva il giro. Sì, solo che lì andare a destra non era verso nord, era verso est. Sì, era al contrario, perché stava di fronte alla Roma. Sì. Si andava a destra però, sì. Nel Mizbeach. Allora, numero 2. Haole la Torah, colui che viene chiamato al Sefer Torah, si chiama Aliyah, sale al Sefer. Yesh lo leitatef betalit mezuyetet, se non era già messo con un talet e va al Sefer, va con un talet, si mette un talit. Veole bederech ketzara, da che direzione sale sulla Teva? La più breve possibile. Cioè, se può salire verso la Teva e prendere o verso destra o verso sinistra da dove lui si trova, deve prendere il percorso più breve. A dimostrare che non vede l'ora di andare. Esattamente, a dimostrare che non vede l'ora di arrivare. E al contrario, quando scende, Yored, e quando scende dalla Teva, Badere Haruka, prende la strada più il percorso più lungo possibile. Un po' come il tempio che si arriva di corsa e si va via da Giordano. Esatto, esatto. Veim shtei hadrachim shavot, e se entrambe le vie, entrambi i percorsi sono equidistanti, allora ole bederech hayamin, sale salendo dalla destra, ve yored, descende scendendo baderech hashnia, dall'altra parte. Venohagim, e si usa shehum mamtin, che chi ha finito la propria chiamata al Sefer attende ad sheha ole acharav, finché colui che prende la chiamata successiva dopo di lui amara beracha achrona, vuol dire dice l'ultima beracha, Vuol dire si rimane vicino alla tevah, non sopra la tevah, ma vicino, a destra o a lato, fino alla conclusione della prossima chiamata, quando quello fa l'ultima berachah, mentre lo fa o dopo che lo fa, la persona si congeda e torna verso il proprio posto. No, domani facciamo il prof. Ve yored ben gavra le gavra. Prende il proprio posto tra una chiamata e l'altra. Poi, numero 3. Chi è chiamato al Sefer Torah, che prassi deve seguire? Innanzitutto, poteach et Sefer Torah, bisogna aprire il Sefer, vero è, e vedere, eise makom yikra, cosa si leggerà? Perché su, tu fai una beracha sulla lettura, devi sapere su cosa fai la beracha. Per questo il lettore deve indicare a chi sale dove sta leggendo, dove leggerà. Dopo che lo fa, allora qui dice lo tiene così aperto, e su questo ci sono diversi usi. In molte comunità c'è l'usanza di dirlo chiuso, come usiamo anche qui. Si chiude il sefer e soghere inav e chiude gli occhi. Quello che dice chiude gli occhi è più perché il sefer è aperto in questa usanza. E non bisogna guardare nel sefer quando si dice la berakha. Quando il sefer è chiuso è già meno importante chiudere gli occhi. Veomere dice Barechu et Hashem Amevorach. E dice a tutti, c'è anche Hashem Imachem, eccetera, però la parte più importante è Barechu Hashem Amorach, benedite il Signore, noi diciamo al pubblico chi. E loro rispondono, Viesh Lomar Bekol, e questo molto spesso c'è qualcuno che va a chiamarsi e recita tra sé e sé, Barechu, no, deve essere detto a voce in modo tale che quello è un invito, Barechu, benedite il Signore, e noi dobbiamo rispondere, lo benediamo, Baruch Hashem Amorach. Emonim, quindi bisogna sentire. Baruch Hashem Amevorach Olam Ved. Se il pubblico non sente colui che ha detto la Berachah, Ve'im lo shamu atzibur et amevarech. Se non hanno sentito, Afal pish shamu o she'ashliach tziburone, anche se il lettore lo sente e quindi gli risponde, allora noi sentiamo la risposta, magari ci uniamo alla risposta perché non abbiamo sentito, Lo ya'anuimo, non rispondiamo. Se non senti, non rispondi. Ok? Non rispondi al Baruch Hashem Amevorach Olam Ved se non l'hai sentito il Barechu. Solamente al Amen si risponde sì alla fine della Berachah, come dice El Aleachar Shesiem Ashliach Tzibur Onin Acharav Amen. Cioè, allora, quello che dice qui, sembra che lui dice che qua, se non si sente Barichu, però il lettore lo sente perché sta vicino alla persona, no? E il lettore risponde Baruch Hashem Vorach Olam Ved, se noi non abbiamo sentito il Barichu, rispondiamo Amen a questo Baruch. Baruch Hashem Vorach Olam Ved, Amen. Ah, Che non abbiamo sentito il Baruch, abbiamo sentito solo la risposta del lettore. Questo sembra che dica. ok. Invece Rav, scusa, Sì? c'è una cosa che prendo un attimo la beraka Sì, così. intanto proseguo. Leachar she'anu ha'kahal Baruch Hashem Mevorach Olam Ve'ed. Quando il pubblico ha risposto a Baruch Hashem Mevorach Olam Ve'ed, abbiamo sentito che lui ha detto Baruch e abbiamo risposto, lui deve ripetere di nuovo. E questo lo volevo anche chiarire, perché spesso quando qui vedo persone salgono sempre e non lo ripetono. Bisogna ripetere Baruch Hashem Amevorach Olam Ved. E poi c'è la Berachah Asher Bachar Banu Mikol Amim. Vuol dire, io prendo una chiamata a Sefer, dico Hashem Imachem, e rispondono Yivarechecha Hashem. E poi dico Baruchu et Hashem Amevorach. Il pubblico risponde Baruch Hashem Amevorach Olam Ved. Io cosa faccio? Ripeto. Baruch Hashem Amevorach Olam Ved. E poi dico Baruch Ata e la Berachah stessa. Asher Bachar Banu Mikol Amim. Oh, per questo lo dico, ci sono molti che non si rendono conto, o lo sanno e nel momento sono. C'è la ripetizione da parte di chi prende la Berachah. Come quando nella Tefilah si dice Barechu e il pubblico risponde Baruch Hashem Amevorach Olam Ved, il Chazan risponde sempre Baruch Hashem Amevorach Olam Ved, di nuovo. Infatti, Ripete. scritto invece sì. La domanda era: dov'è che durante la Berakà uno, per non interrompere la Berakà, deve dire Baruch o Baruch? Baruch anche vado tutto alla mezza. No, che significa? Quando, quando Baruch Atta Hashem, Baruch Atta Hashem, noi diciamo, no, diciamo Baruch Baruch Shemo. Beh. Quali sono i punti dove va detto il nome di Hashem? Sempre, quindi in questo punto. Normalmente sì, come nel, quando si ripete la Midah, Baruch Atah Hashem, Baruch Hu Baruch Shemo. Che vuol dire Baruch Hu Shemo? Che il suo nome sia benedetto. Esatto. Quindi quando noi sentiamo il nome, diciamo Baruch Hu Baruch Shemo. Ah, ok. No, perché ho sempre paura, magari invece che interrompi la, la Berakà. No, perché no. No? Ok. Perfetto, grazie. Sì? Scusa. Guardo questo, quando la persona sale e fa la Berakà, no? Sì. La, la chiamata, diciamo così, è personale, no? Deve, deve avere per Alaha qualcosa in mente, visto che tu leggi per quello che sta preso la chiamata, no? Quindi tu, è come se... te, cioè, tu leggi per noi. Sì, certo. Quindi bisogna avere in mente qualche cosa, nel senso che io do, sto delegando te... Il fatto che stai andando al Sefer, stai dicendo la Berakà, già indica che la tua chiamata è che chi legge, legge per te. Perché sennò non saresti tu a fare la Berakà. Se tu leggi da solo, come fai, scusa, eh? Sai quanto tu prendi la chiamata? Allora devo fare la Berakà? È come me? Sì, certo. Non c'è differenza? No. Però tu che leggi per me? Bravo. Allora, come è vero che tu stai delegando me a leggere per te? È vero, ma non è che c'è una formula particolare che ti devi dire, perché il tuo comportamento indica che è questo che stai facendo. Ah, ok, vabbè. Il fatto che stai dicendo tu la Berakà vuol dire che la chiamata è tua. Quindi è scontato... E c'è tutto questo, sì, ma sì, è, sì, già, sì, è già incluso, è già incluso, incluso nel pacchetto. Okay. Il percorso è indicativo di questo, okay. Giusto? È giusto che chi legge deve avere in mente di far uscire l'obbligo a chi prende la chiamata, e chi prende la chiamata deve avere in mente di uscire l'obbligo con la lettura di chi legge. Okay. Certo. A meno che uno non è in grado di leggere, allora tu lo fai uscire. Quello stiamo dicendo. Allora poi, Mevarecha Berakha Asher Bacharbanu Mikolami, recita la Berakà iniziale del Sefer, del, della Torah, Ve'oni Makahal Amen, e il pubblico risponde Amen a questa Berakà. A quel punto, un Messalek Yadò Asemalit, visto che dovrebbe tenere il Sefer con entrambi le mani, entrambe le mani quando dice la Berakà, quando finisce la Berakà, toglie la mano sinistra e rimane solo tenendo la parte destra. Veochese Sefer Torah bisheata kriya rak bimino, chi sale al Sefer, non chi legge, chi sale al Sefer tiene la parte destra e chi legge tiene la parte sinistra. Sefer è aperto, no? Quindi uno sta di qua e uno sta di qua. Chi legge sta a sinistra e chi prende la chiamata sta a destra. E qua non è così però. Certo che è così. Poi noi leggiamo Berakà col Sefer chiuso, no? Sì. Poi va aperto il Sefer. Poi va aperto. Quindi vuol dire che una mano, una mano la tiene idea. Chi c'ha la chiamata e l'altro... Sì, sì. Certo. Così facciamo sempre. Accorgi, fai anche tu, non ti accorgi. La lascio. Tu c'ha la destra, la lascio, poi ce la metto sopra. Uguale. La poggi, sì, tu la poggi sempre sulla, la mano sulla destra. Destra la poggi. Lo fai, sì, lo fai in automatico. È quello che fai. Se appoggia, ma è quello che fai. Se no avresti il braccio di traverso avanti a lui. Infatti. Se non ho chance. Però lui, che è mancino, c'ha un altro problema lui. È vero? A corre, corre. Chi legge, legge. Vehu kore imo belachash. Se uno non si confonde, è bene accompagnare la lettura sottovoce con chi legge. Che il lettore legge, vai da ber, e tu leggi a bassa voce, vai da ber. Trattete, se riesci. Se ti confondi, perdi, meglio solo sentire. Per chi sta a Sefer. Per chi sta a Sefer, sì, stiamo parlando di chi ha preso la chiamata. Però può seguire con la vista. Deve seguire, cioè, almeno, almeno. Ven hakorera shai likrot, e il lettore non ha il permesso di iniziare a leggere, ad sheyichle amen mi pi hatzibur, finché non conclude la risposta di amen da parte del pubblico, quando rispondono alla Berakà. Solo dopo questo amen lui inizia a leggere. Chol ha-kahal, e tutto il resto del pubblico, anche chi non ha preso quella chiamata, yichavnu da'atam lishmoa hetev kriyat ha-Torah. Si concentrino bene per sentire la lettura della Torah. Leachar HaKriah, e dopo la lettura, Chozer HaOlev HaChazok HaMismolo, torna a tenere il Sefer con entrambe le mani, VeGolelo, viene chiuso il Sefer, Umevarech Beracha Acharona, e recita la Beracha conclusiva del essere chiamati a Sefer. Ora, come si tiene il Sefer? Asur Lechoz et Sefer HaTorah Beatzmo Arom. È vietato tenere il Sefer Torah direttamente senza una protezione, un qualcosa che copre la pergamena. Quindi se si tiene il Sefer o si deve toccare il Sefer è spogliato, bisogna usare qualcosa, un talet, un panno fatto apposta, eccetera. E lo yochazo all'idea talito yochazo be'amudav. Lo tiene con le... manici. I manici, diciamo questi legni fatti apposta per il Sefer, o attraverso un talet, qualcosa. Viesh machmirin, c'è addirittura alcuni che sono, ci sono alcuni che sono più rigorosi ancora, e neanche i manici li tengono direttamente, che quando vanno al Sefer e tengono i manici per dire la Berakha, lo tengono con il talet. Questo non è un'usanza molto diffusa, però almeno il Sefer stesso comunque sicuramente non va toccato con le mani nude. La pergamena, si dice. La pergamena. Ok? Ecco perché quando lui legge, tu con la mano tua, non puoi mettere la mano direttamente sul sedere. Bravo. Prendi il talit e metti il talit. Sì, sì, è vero. Giusto. Invece poi, io ho fatto il contrario. Besha, scusate, numero 5. Seif, hey. Ha ole vegam ha kore, colui che sale al Sefer e colui che legge il Sefer, srichim la amod, devono stare in piedi. Ora voi direte, beh, scontato che devono stare in piedi, mica stanno seduti. Però vi ricordate che abbiamo studiato che le stare appoggiati a qualcosa si chiama, alachicamente, che non si sta in piedi. Sì. È naturale spesso appoggiarsi alla tevà. Invece non bisogna appoggiarsi. Quello non si chiama stare in piedi, si chiama essere appoggiati. Bisogna stare in piedi senza appoggiarsi. Va filo raklismoch al shum davar asur, e anche il mero appoggio a qualcosa sarebbe vietato. Mishum di tzrichin la amod be eima, perché bisogna stare in piedi con timore, cioè con reverenza. Shem shenitna Torah be eima, nella stessa maniera che la Torah è stata data sul monte Sinai, eravamo tutti intimoriti. Kach anu tzrichim linhog ba be eima. Anche in questo caso che ci comportiamo nei confronti della Torah con gran timore, con deferenza. Ve'ach mishehu adam chalush, solamente chi si sente indebolito, una persona debole, può appoggiarsi, e anche questo con moderazione, quanto basta. Numero Vav 6. Besha'a sheha ole omer barechu. Qualora, nel momento in cui il chi sale a Sefer, chi ha chiamato, dice barechu, e il popolo, il pubblico risponde, vakal omrim baruch Hashem amevorach l'olam va'ed, tzrichim kol ha'tzibur la'amod, devono stare in piedi. Aval besha'a sheomer ha'beracha asher bacharbanu, ma quando si dice la beracha asher bacharbanu e durante la lettura, vechen beshiat ha'kriah, ובשעת ברכה האחרונה, e anche durante l'ultima ברכה, non c'è obbligo di stare in piedi, אין חיוב שיעמדו הקהל, solamente ci sono alcuni, אלא המדקדקים במצוות, coloro che sono molto scrupolosi, nel מצוות מחמירים על עצמם, sono rigorosi con sé, ועומדים, e stanno in piedi, וכן נכון, ed è una giusta, un giusto comportamento. אבל בין גברה לגברה, אין להחמיר כלל, ma tra una chiamata e l'altra, non c'è nessun motivo di essere rigorosi. In pratica noi vediamo che anche molti stanno seduti anche da Barechu, però magari quando si risponde Baruch Hashem Avraham Lamved si fa tipo una lieve alzata, Baruch Hashem Avraham Lamved, così, almeno alzarsi un pochino dalla seduta, diciamo. Questo vediamo in pratica il comportamento delle persone. Bella prova, scusa. No, sono cose che non faccio, cioè questa è una cosa che non lo fa. No. Noi. Come dice, ci sono alcuni scrupolosi che rimangono in piedi per tutta la lettura. Anche io vedo, ci sono alcuni così, ho visto, però non è un obbligo. Se, come diceva Leonardo, se il lettore stesso è quello che sale al Sefer, Im hakorebe atzmo hu ole la Torah, se il lettore stesso è quello che sa la Sefer, è bene che gli stia vicino tzarich sheyamod acher etzlo, che qualcun altro stia comunque vicino alla Teva, anche se non c'è un altro che viene chiamato al Sefer, perché questo è indicativo del fatto che Shem shenitna Torah liedei sarsur, Moshe Rabbeinu alav shalom, così come la Torah è stata data tramite un intermediario. Kadosh Baruch Hu ha dato la Torah a Moshe, Moshe l'ha data a noi, Moshe è stato l'intermediario. Kach anu tzchim linhog ba'al yedei sarsur, anche noi ci dobbiamo piegare come se fosse un mediatore, ci rapportiamo alla Torah attraverso un intermediario. Normalmente si usa che intorno alla Teva, a destra e a sinistra, ci sono già due persone, oltre a chi sale al Sefer. Quindi questo è già sufficiente. Non è che chi sale al Sefer deve prendere un'altra persona e stare vicino a lui. Già ci sono questi due che stanno comunque vicino alla Teva. Anche se a Roma ho notato che si usa sì che qualcuno vada proprio sulla Teva. Quindi sono tre persone più chi legge che è quello che prende la chiamata. Non so se è necessario, però si segue l'usanza. Dal momento in cui il lettore legge il Sefer, Chet, numero 8, Keivan shehitchil hakore likrot, dal momento in cui il lettore inizia a leggere, Asur lechol hakahal ledaber, è vietato al pubblico parlare. Afilu bedivrei Torah, anche se parlano parole di Torah, argomenti di Torah. Va filu ben gavra le gavra, in realtà, anche tra una chiamata e l'altra non bisognerebbe parlare. Ve'assur lazet mi beit knesset b'sha'a shekorim b'Torah. Ah, inoltre, è vietato uscire dal tempio mentre si sta leggendo la Torah. Ok? Aval ben gavra le gavra sha'sefer Torah megulal yachol lazet letzorech gadol. Se qualcuno ha necessità importante di uscire, un motivo urgente per uscire dal tempio, e si sta leggendo il Sefer, anche questa persona dovrebbe aspettare che finisca la chiamata, che il Sefer sia chiuso, e solo lì esce da, e solo in quel punto, in quel momento esce dal tempio. Ma proprio se deve. Come per andare, se deve. Come la cosa per andare è urgente, banco, è importante. Beh, certo, se è urgente, sì. Scusa. Sì. Un passetto indietro sì. Alla dede, insomma, al discorso del, così come Moshe Rabbeinu è stato intermediario. Intermediario, sì. Mi sono perso con una delle persone, mi sono visto un collamento. In pratica sta dicendo che il lettore non sia solo alla Teva. C'è già quello che legge. Ah, il lettore. Che il lettore non sia solo, visto che il, no, visto che il lettore è quello che prende la chiamata, nel caso in cui il lettore è quello che prende la chiamata, allora l'alaha è che il bene è che lui non rimanga solo sulla Teva. E ci sia almeno un altro. Ora ho detto che in pratica si usa comunque che durante la lettura ci sia una persona, normalmente il gabai, a un lato della Teva e un'altra persona all'altro lato della Teva, e quindi questo è già coperto. Comunque così, che non rimane solo. Ma nella valutazione di queste figure, quando il lettore è il chiamato, bene o male nella conta, chiamiamolo tra virgolette, di questa situazione, già coincidono, perché uno è il delegato dell'altro, quindi rappresentano tutt'uno, rappresentano una figura sola. No, capito. Si può intendere che chi legge è il chiamato, sì, è la persona chiamata, figurativamente coincidono con una figura sola. Perché? No. Perché uno legge per delega dell'altro, non rappresentano lo stesso profilo in quel momento. Comunque, vabbè. Beh, diciamo stanno collaborando a fare una mitzvah, ma non è che non rappresentano un'unica figura. Comunque, no, non sto parlando di quello. Uno dire, a sinistra è uno di a prescindere dal numero delle persone. Ci non è per stare per... È un concetto, non sì, per quello dico, persone. Sì. No, non per non per la conta delle persone. Vabbè, okay. No, è un'idea più esoterica questa, non è un'idea alachica, vuol dire... quando ci si unisce... attraverso una mitzvah, potremmo dire in maniera figurata, no? Sì, figurata, sì, sono... che si diventa un'unica cosa. Sì, si può dire, ma non solo per questa mitzvah. Perché uno sta consentendo all'altro di sì, farlo. Sì, ma per qualsiasi mitzvah. E l'altro non lo può fare senza, però vale per tutte. Si associano alla mitzvah. Si associano. Ora, che si esce Kohen bevet HaKnesset, se è presente un Kohen al Bet HaKnesset, srichin likro oto techilah. siamo obbligati a chiamarlo per primo sulla lettura del Sefer. Filu im hu amarez, anche se è un ignorante, per esempio dici c'è qualcuno qui che è un grande Talmid Chacham, un grande, conosce tutto il Talmud, e questo Kohen è ignorante, perché dobbiamo dare più rispetto a lui? Che è scritto così. E la sua Adam Kasher, se è una persona normale, degna, anche se è ignorante, u kodem afilu Talmid Chacham, ha precedenza anche rispetto a uno studioso. Certo. Okay. Ok? Mica ha deciso lui. E anche se il Kohen vuole limchol, ma se limchol? No, la conosco. Mechila. Liberare. No, vuole rinunciare. Dice, no, io rinuncio perché voglio che questo Chacham prenda la prima chiamata. Non può. L'omehane, non è permesso a lui rinunciare. Ve'achara Kohen, e dopo il Kohen, Korin Levi, si chiama al Levi. Però può rinunciare rispetto verso un altro Cohen che è più dotto? Se t'hanno chiamato, basta. Potrebbe rinunciare verso un Cohen se non è stato ancora ufficialmente chiamato, giusto? Avete tutte e due ragioni. Vim, encham Levi, ma se non c'è un Levi, e il Cohen ha preso la prima chiamata, ora non c'è un Levi, cosa si fa? Si va avanti. Si telefona, Alberto, si briga. Non si chiama il telefono, si dice... Corin et Kohen asher ala bimkomo veomrim bimkom Levi. Lo stesso Kohen prende anche la seconda chiamata. Si dice Kohen bimkom Levi. Kohen al posto di Levi. Lui continua per... Fa un'altra chiamata. Vim en Kohen bevet HaKneset, e se non c'è un Kohen al Tempio, Corin bimkomo Levi o Israel. A quel punto lo si chiama al posto del Kohen. O un Levi o un Israel. Non siamo obbligati a dare la chiamata al Gabai e al Levi. Però ci fa piacere, però non siamo obbligati. Se ci pensi, cioè, è giusto, perché certo. Cohen fa parte della tribù di Levi. Bravissimo, ecco, volevo vedere se qualcuno ci arrivava. Viesh likrot et hayoter gadol batorah shenimtza sham. Ora, a chi dare la precedenza delle chiamate? Se c'è qualcuno che è più grande di tutti nella Torah, si dà a lui. Veomrim, come prima chiamata. Veomrim im en kan Kohen, Levi bimkom Kohen. Si dice... Non c'è presente un Cohen, che salga il Levi al posto del Cohen, o che salga l'Israele al posto del Cohen. Si fa sempre riferimento al Cohen. Se il primo ha preso la chiamata è stato, il primo che ha preso è stato un Israele, bim karu Israel bim kom Cohen, cioè al posto del Cohen è stato un Israele, non si chiama più dopo un altro Levi. Anche se è presente un Levi, se gli si vuole dare la chiamata, gli si dà la prima. Se certo, si è data la prima a Israel, non si dà la seconda a Levi. Certo. En Corino Harab Levi. Yishuv Shekulam Kohanim Leviim. Un luogo in cui tutti sono Kohanim Leviim. Sentite la risposta. Yasu Sheilat Chacham Echit Nahagu. Dovranno domandare a un Chacham come comportarsi. Davvero. Oh, è la risposta. Qui concludiamo.